Allora parlo con la Zanzara, Radio 24. Ciao Belli, Radio DJ. DJ Angelo Roberto Ferrari. Da Foggi, provincia di Cagliari, vicino a Cagliari. Sono molto felice di parlare con lei, dottor Cruciani, che tra l'altro. Vabbè, dai. Tra l'altro, dottor Cruciani, dai gossip leggo che lei è un cacciatore di figa, no, niente male, cazzo. La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Io la sera mi metto qua e vi ascolto, mangio le patatine e vi ascolto, come quando si va al circo. Quanti coglioni ci stanno in Italia, mamma mia. Zanzarosi, contattateci all'800 24 0024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Ce l'ho sempre con la Fedeli, non so perché. Fedeli sì, ma solo alla poltrona. Fedeli, Fedeli sì, ma solo alla poltrona. Il neo ministro dell'istruzione che dice adesso: beh, non mi aspettavo tutta questa aggressività nei miei confronti. La laurea è stato solo un errore lessicale. Un errore lessicale. Un errore lessicale. Hai tolto tu la cosa. Hai tolto tu. Comunque si stupisce in un'intervista, credo al Corriere della Sera, si stupisce sì. dell'aggressività. Ma cosa ti stupisci dell'aggressività? Cioè, cosa ti stupisci dell'aggressività? Se avevi detto che non volevi più poltrone una volta perso il referendum, lo hai detto tu e ti siedi su una poltrona. E allora, Fedeli sì, certo Fedeli, ma alla poltrona. Ed è giusto rimettere il mandato da parte del Premier, secondo me, ma anche con la consapevolezza dei parlamentari. Tolgo l'alibi a chi pensa, tanto stiamo lì fino al 2018, perché pensano alla propria sedia. Io non penso alla propria allora, sedia. Allora, sul quesito poi sedia. Ne parliamo. Perché... Allora, oggi Giovanardi in aula, caro Parenzo, anzi ieri credo. Buonasera, buonasera. Che succede? Che succede lì? Giovanardi, se conosci Giovanardi? Dunque un attimo, ieri, Giovanardi, durante la fiducia, sai chi è il senatore Giovanardi? Senatore Giovanardi, no, mi dice qualcosa. Su... Sì, no, adesso devo un attimo da vederlo. Ah. Carlo Giovanardi, sì, Carlo Giovanardi. Certo, se lo ricordi quello che era con Berlusconi una volta? Sì, come no, ma poi certo. È passato da Alfano, poi adesso non è più nemmeno con Alfano. No, ma vabbè, ci mancherebbe. Cioè, Giovanardi dice cosa che dà la sfiducia di eclatante. No, cosa ha fatto? No, le motivazioni per la sfiducia al governo, in particolare per la presenza della signora Fedeli. Perché due pinguini maschi non fanno l'uovo. Sì. Cioè, siccome credo il riferimento sia alla signora Fedeli, no? Comunque in genere sì. al governo, perché è il governo del gender, cioè il governo che ha approvato le nozze gay. Sentiamo, Giovanna. Sì. Va. Una delle cose buone fatte. Anche queste certezze sulle sorti progressive attraverso le quali si andava a dare il materiale che noi abbiamo raccolto e distribuito dal governo ai bambini di 4 anni spiegandogli che due pinguini maschi fanno l'uovo, cioè che due uomini generano i bambini, ecco questa forma terribile di indottrinamento venga finalmente accantonato. Oh, per quanto mi riguarda, è evidente che questo è un motivo di più per votare la sfiducia a questo governo. Per Feltri la Boschi è meglio di Renzi esteticamente, dunque è giusto che rimanga. Cioè, ne fa una questione estetica. Estetica. Poi anche tutto questo accanimento contro la Boschi, la quale Boschi poteva anche andarsene, avrebbe fatto un gesto elegante se ne fosse andata. Però il fatto che rimanga, esatto, dal punto di vista estetico, a me non dispiace la Boschi, preferisco lei a Renzi, lo devo dire con tutta sincerità. Alfano? Ma cosa c'entra con questa estetica? Ma giustamente lui dice: meglio vedere la Boschi di vedere Renzi. Sì. In generale, ma è così. Cioè, per quello che mi riguarda, è così, anche per te è così. No, a me piace Fede che dice: ma guarda, a me non me ne frega niente. In generale, mi piace Fede che dice: ma a me, francamente, non me ne frega niente. Però. Vabbè, francamente, non me ne. Adesso questo è diventato nuovo. Questa è una bella imitazione. Ma guarda. A me, francamente, non me ne frega niente. Però. Dice anche se non avessimo il governo, non saremmo qui a romperci i coglioni. Sì, cioè, ma me ne frega niente il governo. Ma cosa me ne frega a me di cosa succede? Me ne frega niente. Fa così. Io almeno speravo che non ci fosse alcun governo, cioè che l'Italia stesse un annetto senza governo. Se anche l'Italia fosse stata senza governo, intanto non saremmo qui a romperci i coglioni a parlare di queste cose e sarebbe già un successo. Ha ragione, su questo ha ragione. Ma cosa stiamo qua a parlare, a fare? Sì. Ma non che ce ne frega? Ma che me ne frega a me del meglio a me la figa. Francamente di Renzi non me ne frega niente. Adesso mano a mano affini l'imitazione. Sì, aspetta, cioè, affini l'imitazione. Vedrai che per esempio quando dice Alfano chiamalo scemo, senti. Ma questo cade sempre in piedi. Chiamalo scemo. Ma tu pensa, è talmente intelligente Alfano che ha mollato il Ministero dell'Interno nel momento più difficile della sua storia. E cosa ha fatto? Ha scelto gli esteri, perché agli esteri, degli esteri non capisce niente nessuno. Poi ancora, spero che qualcuno baci le mie mani. Devi affinare. Spero che qualcuno baci le mie mani. Non ho mai fatto neanche una volta il baciamano, però spero che qualcuno baci le mie mani. A un certo punto la Boldrini oggi interrompe Di Battista, poi vi prometto basta con la politica, almeno di file di politica, di audio di politica, perché veramente in questi giorni purtroppo siamo costretti perché Beh, costretti, tutta la vicenda. C'è una grande cronaca, una grande attualità, per carità. Tante cose da raccontare, i partiti, i sistemi elettorali. Insomma dai. Comunque, Di Battista a Boldrini, senti, a un certo punto Di Battista dice una cosa in aula, la Boldrini lo interrompe. Dibba, devi chiamarlo, Dibba. Lei è stata scelta come ministro nonostante si sia spesa per il sì, cioè è stata premiata per un suo fallimento. L'ordine del giorno però, deputato, l'ordine... Colleghi, per favore, evidentemente vada al punto. Per un proprio fallimento il ministro Madia dopo che la consulta gli ha bocciato il decreto. Però, però deputato Di Battista, vada al punto dell'ordine del giorno, abbia pazienza. Il decreto che riguarda quest'ordine del giorno, posso fare un discorso complessivo o mi deve interrompere? Il discorso deve essere sull'ordine. No, colleghi, il discorso deve essere sull'ordine del giorno, mi consentirà. Mamma mia, che fastidio, guarda. Beh, però, che fastidio. Però magari sul merito ha ragione la presidente Boldrini. Sembra la presidentessa Boldrini. Una specie di, come diceva Berlusconi, di capò. Cioè, sta lì ma a no, fare. E fa il presidente della Camera. Stava riportando i deputati all'ordine del giorno. Adesso questo non mi pare frutto di che si debbano scatenare. Comunque, a me non frega niente. Per me Boldrini, ma chi era Boldrini? Ma frega niente, Boldrini per me può dire quello che vuoi. Sono qua libero, me ne frega niente a me. Ma stanno, ma ci sono gli immigrati che fanno delle razzie in tutta Italia. Se andate a parlare della Boldrini, mi invitate per parlare di queste minchiate. Me ne stavo a casa mia. A me di questa roba me ne frega niente proprio. Fa così o no? Prova sì, a sentire. Sì, ma di cosa parliamo? Ma di cosa parliamo? Stiamo, me ne frega niente a me. Comunque ragazzi, a proposito di razzie di immigrati, sì, che tu hai evocato, in realtà a Cagliari in Sardegna è successa una cosa del genere. Un gruppo di immigrati, stufo, ho capito ragazzi, stufo. Un gruppo di immigrati entra in un supermercato Lidl, in un supermercato Lidl, hanno fatto razzia, dice, pensavamo che uno potesse, fosse gratis, potessimo approvvigionare, ma che stiamo nel coso, nel Far West, un gruppo di immigrati in Sardegna, è una roba incredibile, dai. Comunque ragazzi, la Boldrini, poi andiamo su un altro personaggio del giorno, la Boldrini. Bandiera a mezz'asta fin tanto che ci sarà la mattanza delle donne. Ora, non è importante che ci sia la bandiera a mezz'asta, stava per scapparmi la metafora sessuale. La bandiera a mezz'asta alla Camera dei Deputati, stava per scapparmi, alla Camera. Però amica mia, non c'è nessuna mattanza, lo ha detto l'Istat, non c'è alcuna mattanza. Purtroppo ammazzeranno sempre le donne. Dunque uno dovrebbe tenere la bandiera della Camera a mezz'asta sempre, perché le donne purtroppo ne ammazzeranno sempre come ammazzano gli uomini. Per cui la bandiera a mezz'asta prima o poi dovrà tornare ad asta dritta, no a mezz'asta, con l'asta dritta. Bisognerà tornare con l'asta dritta, o no? Parenzo, torneremo con l'asta dritta o no alla Camera? Francamente dell'asta me ne frega niente. Mi invitate a parlare di roba che non mi interessa, mi fate neanche parlare. Quello che fa la Boldrini, ma non me ne frega niente a me, ma non me frega niente. Sono qua libero, abbiamo fatto un titolo straordinario su questi imbecilli che fanno razzie, questi. Ma poi mi chiedete la Boschi. Ah, Boschi va bene, lì a governo, ma cosa me ne frega? C'è da parlare. Me ne frega niente a me. Sentiamo la Boldrini. Simboli, perché l'impegno ha bisogno di simboli, e allora si espone il drappo rosso sulla facciata di Montecitorio contro il femminicidio e rimarrà lì fin tanto che ci sarà la mattanza. Si abbassa la bandiera di Montecitorio in segno di lutto quando le donne vengono uccise e continuano a essere uccise. Ma quando finisce sta legislatura? Non abbiamo più il presidente della Camera, che non sarà mai più la Boldrini. Cioè, quando finisce sta legge? Io solo per. Ma ragazzi, ma non si può. Non cosa si ha può fatto? Sentire. Cioè, adesso non si può sentire. Bisogna valutare nel merito via via. No, non ma è che cazzo, ma in la bandiera a mezz'asta finché ci sarà l'uccisione Intanto delle donne, basta, che ci sarà sempre, da purtroppo. Oggi basta parolacce, ti prego. Di caspita, è molto meglio. Prova per un giorno, per una puntata, su, a usare più delle altre di. Oi boh, caspiterina, mannaggia. Io voglio sentire il traffico, avete capito? Il traffico! Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta La Zanzara. Allora, la vicenda della mitologica Alessandra Moretti, caro Parenzo, è anche amica tua la signora Moretti, no? Diciamolo. La conosco bene, no, gli amici sono altri, è una, dire, di è una persona che conosco. Di Vicenza, conosco molto Moretti bene, certo. Signora Moretti è consigliere regionale in Veneto dopo aver perso con Zaia la corsa alla presidenza. Tutto bene, per carità, pare che abbia anche un tasso di presenza piuttosto alto in regione, credo secondo solo a quello di Zaia, questo per precisare, Però, amica mia Moretti, al di là di quello che dici, ti abbiamo criticato tante volte, la questione di Lady Like, ti ricordi, no? Certo. Eccetera, eccetera. Questa qua si è messa in malattia e dopo è stata fotografata in India. In India. Sì, ma la cosa strana, io ho letto in un po' India. La. Sì, no, io ho letto la questione. Ma era lì con un assessore, peraltro. No, è andata lì per un matrimonio di un signore, ma non me ne frega niente. Ma non era quindi una cosa istituzionale. No, non che era doveva affatto fare una cosa istituzionale. E quindi perché era con un assessore anche. Ma non me ne frega, sarà amico suo l'assessore. La signora Moretti, consigliere regionale, può andare dove vuole. Sì, ecco, appunto. Può andare anche a. Però dici. Può diventare buddista. Importante che non dica alla commissione, alla giunta regionale, al consiglio regionale, più che alla giunta di cui non fa parte, che non è in malattia. L'hanno chiamata da Radio Capital questa mattina, se non sbaglio. Francamente non me ne frega niente. Ma francamente, guarda adesso, ma che roba è che uno parla di Radio Capital, la Radio 24, ma non me ne frega niente. Noi figurati se abbiamo problemi. Ma vado via, ma non me ne frega niente parlare di queste robe, vado via. Sì, ho avuto la febbre, poi sono partita per l'India, mi sono riammalata e adesso sto rientrando. Poco prima di partire io sono stata male, ho avuto l'influenza, dopodiché sono partita perché il viaggio era programmato da tempo. Qui in India sono stata male, ma come tutti, voglio dire, qualche giorno di disagio. cosa volete le dica? Mi sembra una cosa abbastanza surreale, francamente, dovermi giustificare. Cioè, di che cosa mi devo giustificare? Ma guardi che io comunque, cioè, voglio dire, non è che le ho ricostruito la vicenda. Adesso, siccome non sono in un'aula di tribunale, francamente, mi sembra molto surreale tutta questa attenzione e questo interesse, voglio dire, per il mio stato di salute e poi anche per la mia vita privata, francamente, no? Siamo letti, dopo che lei si è lasciata col signor Giletti, a noi, che cosa che era diventata pubblica perché lei è famosa e il signor Giletti è famoso, sinceramente se lei va in India non frega niente a nessuno, soprattutto da quando lei è consigliere regionale in Veneto, c'è meno attenzione nei suoi riguardi, per cui non c'è attenzione nei confronti della sua vita privata, di cui... No, a noi non interessa la vita privata, a meno che non faccia delle cose. Non frega niente, francamente. Tratti in testa da roba adesso è difficile. Senso, fai ma i tempi. Non frega niente, francamente. Vengo ma in anche, cosa parlate? Vengo anche gratis. Vengo pure gratis, mi rompete il coglione con queste robe, ma ne frega niente. Sono qua libero a lavorare, ma ne frega niente. Con le cose che accadono nel paese, poi ci sono gli immigrati che stuprano violento, ma ne frega niente di questa roba. Parlate di robe da Moretti, ma che roba è? Ma ne frega niente. Ma fa così o no? Secondo me sì, sì. Allora ragazzi, gli voglio molto bene. Il problema è questo, sì, okay, ma sì. Il problema no, è molto semplice. La signora la signora Moretti sì. ha detto che era in malattia. Ma Moretti, me ne frega niente. Era in malattia. Non si può fermare. Era in malattia e invece è stata fotografata tutta vestita con le cose che si mettono in testa questi qua. Ma che vai a fare l'indiana? A meno fai. Sì, questo cosa c'entra? Sì, è andata lì tutta vestita da indiana, col terzo occhio. Ma io non ho capito, però critichi la Moretti perché si veste da indiana e non dici niente al divino Telma che si veste con un pagliaccio del circo Barnum. Quello è il divino Telma. Ho capito, quella era in India, si è presa, si è messa, non puoi criticarla. Ma non dica che è malattia, non dica che è malattia. Vada in vacanza e basta. Pare che abbia spiegato, adesso poi non lo so, ma non me frega niente. Carlo da Roma. Carlo da Roma. Vabbè. Dai. Dimmi, Carlo, forza. Niente, volevo dire calma, Giuseppe, porca, ogni volta che lo vediamo è sempre di fretta, ma non cazzo ecco, devi andare, tanto fine 8 e mezza devi stare là. Vai, Carlo, dimmi. No, ti volevo dire che ieri sera vi siete comportati da grandi con qua la signora. Vabbè, so che sei ironico con la Rosina, dai. Sono ironico. Sì, sei ironico. Voi siete stati bene, siete stati bene. Abbiamo anche chiesto scusa. Guarda, abbiamo chiesto scusa. Se siete tu speaker, che cazzo siete? Frattico con quell'altro cretino. Vabbè, Carlo, che vuoi da noi? Ci vuoi rimproverare per la cosa di Rosina di ieri sera? Beh, il minimo rimproverare. Cioè, che vuoi fare? Ci vuoi insultare? Niente, che vuoi fare? Ci vorrebbe da dare due calci alle palle a tutte e due, dai. Ah, sì. Calci alle palle. Calci alle palle. Ma fisicamente, sì, così. Fisicamente. Cioè, sta parlando quello... Ti metti lì e uno da un calci alle palle. Tanto... Cioè... sta parlando per il coglione mio per tutte e due, senti come strilla. Sta parlando uno, Carlo da Roma, che si è proclamato Parenzo nazista. Ma infatti la cosa incredibile è questa, e poi noi dovremmo chiedere scusa, come peraltro abbiamo chiesto, certo, alla signora Rosina, perché noi non è che ci nascondiamo di fronte alle cose, ma lei non ha chiesto mai scusa per tutte le cose violente che ha detto qua. E allora vede la differenza, si accorge della differenza. Quando uno sbaglia chiede scusa, lei capito. Invece si proclama apertamente nazista e non chiede scusa. Ma vada a quel paese. No, a tutte le vittime di Hitler, per esempio, no? Che ne ha fatto... tutte le vittime di Hitler non chiede scusa. Ma perché? Perché non ha ammazzato nessuno, secondo te? Allora perché hanno mandato in trasmissione sabato? Ma chi? Tutta la storia di Hitler. Ma che c'entra? Quella è la storia, ma è la storia quella. È la storia quella, è la storia. Ma io seguo la storia. Ma che segui la storia, dai. No, invece te che segui. Hai detto io sono hitleriano, hai detto. Sono a favore di Hitler, hai detto. Sono nazista. Sì, sono per Hitler. A me mi è piaciuto come statista, mi è piaciuto quello che ha fatto e non mi piace quello che stanno a fare gli italiani, che sta a fare il governo. Ma che c'entra con Hitler? Che fate voi specialmente? Che c'entra con Hitler? Perché si sa se siete due giornalisti, due speaker, due... Ecco, che mi hanno attaccato. Ah, no. Chi ti ha attaccato? Ma dove stai? Giornalisti, che cazzo siete voi? Se fai capire, due opinioni. Ma chi è questo qua? Ma che roba? Ma devo stare qua a parlare con questo? Ma me frega niente di questo. Ma che roba è? Dove è? Ma cosa me ne frega? Ma frega niente di questo qua. Voi mi dà un personaggio, voi mi dà Vittorio Fetti che è un personaggio. È attivo, è vuole. È attivo. Ciao Carlo, ciao, ciao. Carlo, ciao, ciao. Emanuela, provincia di Lecco, dai Emanuela. Salve, senta, è un po' che aspetto, quindi la domanda era, cioè volevo intervenire sulla faccenda del ragazzo, del signore marocchino. Ma tu sei uomo o donna, non ho capito. Sì. Sei uomo o donna? No, sono donna. Sei donna, che ne so? No, per carità, mi sembrava una voce un po' male. Una voce un po' allora, da sì, fake, una voce un po' fake, una voce un po' fake, sinceramente. Comunque, vabbè. Non lo so. Dimmi. No, senta, mi dia del lei, per favore, come gli sto andando io. Dimmi, io ti do del tu, se allora, tu mi vuoi dare del lei, mi dai del lei. Per quanto riguarda la Moretti, sono d'accordo con la Moretti che ha dato delle spiegazioni più che valide. Perché capita, aveva pronunciato un viaggio, si è ammalata, poi è stata meglio. Vabbè, poi? Ma bisogna essere inquisitore. Poi per la Fedeli, lei si scandalizza Fedeli, per la Fedeli, Fedeli. La Fedeli, che ha fatto tranquillamente Grillo. Quando ha perso le europee aveva detto se perdo... Era prima delle europee quella roba lì. Comunque sono due casi molto diversi, Se perde, se perdo le europee vado via. Non ha affatto detto, non è paragonabile la cosa, non è paragonabile. Ah no, vabbè, perché è chiaro, perché lei a un certo punto è inquisitore verso la Fedeli e non verso Grillo. Ma che c'entra? Al discorso lì di Marocchino, che era quello che volevo ieri, mi è capitato che un marocchino dopo che a un certo punto avevo perso le chiavi della macchina sul supermercato ben lontana, mi accompagnasse a casa, aspettasse che recuperasse le macchine. Cioè è stato gentile con te, è stato gentile con te. Vabbè, no, capito. Voglio dire che vabbè, non ti ciao Emanuele, ciao. Ho i nani nel cervello. Verona-Torino, trasferta d'affari. Io, un collega e il sistema Digital Radio. Ti va di ascoltare la radio? Certo, ma te la faccio provare in digital. Ne ho sentito parlare. Il suono perfetto che non ti lascia mai nemmeno in autostrada. E in più hai tanti contenuti speciali. Basta un autoradio digitale. DAB Plus. Chiedila al tuo concessionario. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. La Zanzara. Grande rete in tutta la città, partiamo dalle periferie, silenziosi. Padova libera, aperta all'Europa, al mondo, hashtag Parenzo Sindaco. Padova ha bisogno di rinascere come città perché è stata divisa. C'è una Italia bella, ma non radical chic, snob, come dici tu, di tutto. Andiamo a casa, mettiamoci ai gazebi, casa per casa, strada per strada e lavoriamo per riscattare questo paese. Ragazzi, siete tanti, lo so, ma ce la faremo, riconquisteremo questa città. Il silenzio assordante sta venendo fuori. Siamo qui a dire ricostruiremo Padova. Renzo, devi essere vivo! Devi essere vivo! Questo, bellissimo, bellissimo, un incitamento alla vita di Parenzo, però oggi è vivissimo, ma è sul pezzo. Ma frega niente, ma cosa parlare, ma frega niente, mi invitate. Scusi, come frega, colleghiamoci con la sede di Libero, Vittorio Feltri, buonasera. Buonasera. Ma scusi, ma che ne pensa del governo Gentiloni? Gentilo, ma non me ne frega niente, ma che domanda, ma c'è un paese che, ma a me vi parla, a me... Personalmente me ne frega niente proprio. Che vuol dire? Me ne frega niente. Mi invitate qua, mi tenete al telefono. Ma scusi, ha detto 10 minuti, me ne frega niente. Ma di no, queste è appena stupide... iniziato il collegamento. Parlate solo di stupidaggini, me ne frega niente. Chiedete la Boschi, ma... poi c'è quella musichetta fastidiosa che mandate solo quella gente. Ma scusi, che lei urla. Ha detto che la Boschi è meglio, è ma... meglio di Renzi perché almeno. Ma c'era, almeno è bella lì, è bella. Figa. Me ne frega niente. Ma fate le domande, me ne frega niente di quello che allora dico. Ragazzi, però dobbiamo parlare di una cosa molto importante, sì. Perché c'è metà della città di Roma, almeno quella di fede laziale, che è molto arrabbiata. Sì, l'ho sentito. Con una persona che fa parte di questa redazione, anche uno se questa dei volta... nostri ragazzi, anche se ha 60 anni praticamente. No, non ha 60 anni. Beh, no, adesso sì, dobbiamo essere seri su questa cosa, no, non possiamo ridere. Sì, no, no. Allora, Andro Mercù fa parte di questa redazione, lavora anche, fa delle imitazioni per tutti i convocati. Sì. Che è una ottima trasmissione, sì, vabbè, con Pardo, Genta, sì, è una bella trasmissione. Ma in onda anche la domenica, e lui lavora, sì, il sabato e la domenica anche in questa trasmissione, anzi soprattutto la domenica. Allora, cosa è successo domenica, ecco, 11? Facciamo, beh, risentire. Lui ha imitato Gasparri. Ha imitato Gasparri. Scoppiato un casino. Sì, per la vicenda di Strootman, l'espulsione, l'espulsione sì, del giocatore della Lazio, la squalifica poi tolta a Strootman. Lui ha imitato Gasparri, che fa un ode a Strootman. Cioè, Andro ha imitato Gasparri. Ha imitato Andro. Gasparri. Okay. Ha pronunciato delle parole sì, che hanno fatto arrabbiare i tifosi della Lazio, perché hanno ricordato chiaramente quello che successe 37 anni fa, quando un tifoso della Lazio che si chiama Vincenzo Paparelli è stato colpito da un razzo e ucciso da un tifoso della Roma, un razzo proveniente dalla curva sud e diretto alla curva nord. Sentiamo quello che ha detto Andro, lo sketch di imitazione di Mercù. Io vi propongo un altro capolavoro poetico, si chiama Ode a Strootman, sì, e invito anche Pierluigi Pardo ad assentirla, ascoltarla con particolare attenzione. Sì. Allora, ode a Strootman. Oh Kevin, fino a ieri eri squalificato, ma poi giustizia ha trionfato. La sete è un problema grosso, a Cataldi gli ha gettato acqua addosso. Sì, che non è stato meglio bello. Acqua che un berrazzo a Laziale. Allora, meglio acqua. Meglio acqua del razzo, di un razzo a Laziale, avete rotto il cazzo. Adesso c'è qui Andro Mercù, che è appena arrivato da Roma, peraltro, che mi sta mostrando. Buonasera. Ciao Andro, buonasera. Mi sta mostrando la. Mi dispiace la cosa, molto per quello che è successo. Che mi dispiace tantissimo pure a me. Mi dispiace. Kevin, fino a ieri eri squalificato, ma poi giustizia ha trionfato. La sede è un problema grosso. Per questo a Cataldi gli ha gettato acqua addosso. Meglio acqua con bel razzo a Laziale, avete rotto il cazzo. Vabbè. Che ha scritto anche un post per spiegare, peraltro. Sì, l'ottimo. No, allora la cosa da precisare è molto semplice. C'è stata tutta una giornata in cui addirittura alcuni tifosi della Lazio sono venuti sotto la sede. Sì, qui a Roma me l'hanno detto. Certo. A sede del Sole 24 Ore a protestare. Allora, Andro ha intenzione, come ha già fatto sul suo sito Facebook, poi chiudiamo questa vicenda, sì, di chiedere scusa pubblicamente, ma lo facciamo qui in radio, cioè con la sua viva voce, ai tifosi, a chi si è sentito offeso. Cioè, in primis, immagino alla famiglia Paparelli. Allora, Andro, chiedi scusa. Allora, non è che te lo devo dire io. No, beh, certo. Allora, innanzitutto devo dirvi che sono estremamente dispiaciuto, perché non c'era alcuna, credetemi, certo, alcuna intenzionalità. Certo. Io veramente avevo fatto un infelice, evidentemente, ma col senno del poi, una infelice rima, perché mi riferivo a un'ode precedente alle consultazioni che Gasparri aveva fatto, e quindi ho voluto fare sta cosa sul... Ma come ti è venuto in mente il razzo? Scusa, spiegami. Perché solo per fare rima con cazzo. Cioè tu potevi utilizzare qualsiasi parola, ve lo giuro, è così. Esattamente, solo esclusivamente per una questione perché chiaramente di la maggior parte delle persone che conoscono quell'episodio ha fatto un riferimento diretto tra razzo e la vicenda Paparelli. Io credetemi. Ma io ti credo, io ti giuro, credo. Non c'è la base. Comunque, io dico questo. Io mi scuso pubblicamente innanzitutto con Gabriele Paparelli e tutta la famiglia. E Gabriele Paparelli, che è il figlio. Esattamente, io l'ho chiamato per primo per spiegargli l'accaduto. Non mi permetterei mai mai nella mia vita a prendermi gioco e scherzare su un fatto così tragico e tristissimo. Quindi assolutamente no. Chiedi scusa a tutta la famiglia Paparelli. Io chiedo in più, scusa naturalmente alla famiglia Paparelli, a tutti coloro, tifosi della Lazio che si sono sentiti offesi per questo mio sketch, che però, io ripeto, ve lo giuro, non è stato assolutamente intenzionale, non c'è alcun riferimento alla famiglia. Ma tu sapevi di questo episodio di Paparelli del 79? Col senno del poi, io mi ricordo che ci fu qualcosa, ma io del razzo non mi ricordavo assolutamente niente. Precisiamo, io credo io peraltro sono interista, vengo da una città. E poi nato e cresciuto a Trieste, mezzo sloveno tra l'altro. Assolutamente sì, quindi io ripeto, mi scuso pubblicamente per aver generato involontariamente, senza alcuna intenzionalità, sì, E ripeto, un abbraccio grandissimo alla famiglia Paparelli, che non conosci, con cui hai parlato al telefono. Ho parlato con Gabriele Paparelli, che dice che deve ancora metabolizzare, che ovviamente è rimasto molto scosso. Io rispetto assolutamente questo. Il problema fondamentale è questo, ragazzi: è uno sketch di Gasparri, uno sketch venuto oggettivamente col senno di poi male, sì, per questo riferimento a Razzo, sì. Ma non, Andro non sapeva assolutamente dell'episodio e non c'era nessun riferimento diretto alla famiglia Paparelli, non voleva offendere nessuno. Ecco, e rispondo anche a tutti i tifosi della Lazio, soprattutto è stato minacciato di morte su Facebook, ecco. No, perché oggi ha chiesto scusa su Facebook e lo hanno minacciato di morte, ragazzi. Andro l'hanno minacciato, quindi, di morte, sì, hanno minacciato, sì, di morte, tante minacce, mamma mia, ragazzi, pesanti, ma... Io dico a tutti i tifosi della Lazio, scusatemi, perdonatemi, ma basta, non c'era assolutamente alcuna intenzionalità. Grazie, ciao, ciao, ciao. Allora, Fabio dalla provincia di Como, vai! Fabio dalla provincia di Como, vai! Ciao, no, dimmi, dimmi. Ciao Parenzo. Dimmi. Salve, Fabio. Telefono per questo, io telefono dalla provincia di Como, ma sono di Milano. Sì, volevo, sì, dirvi che... Ma allora, perché niente, chiama? Ma allora si capisce perché chiama, allora, non frega niente. Non so, capisco niente. Se una di Como, chiami Como, ma è incredibile, ma ne frega niente. Me ne frega niente neanche a me. Scusa, dai, Angelo, allora... è entrato Feltri dentro di me, chiedo scusa. Allora? Volevo soltanto fare un appello, perché sì, a prescindere dal fatto che a me della religione non me ne frega niente, perché non è che sono un bacio a croci, però nella scuola di Nicola di Milano stanno rubando del tutto il Natale ai bambini. Cioè, che è successo? Scusa. Niente, hanno deciso di non far festeggiare il Natale, ma nemmeno con dei canti laici. Niente, com'è possibile? Scusa, non festeggiano il Natale in nome di che cosa? È in nome di un rispetto nei confronti delle altre religioni presenti nella scuola. Ah, non lo so, mi sembra veramente una puttanata. Cioè, a me dei festeggiamenti di Natale in generale non me ne frega niente. Cioè, se li fanno o non li fanno, se li fanno o non li fanno, per me è indifferente. Non è che nella scuola di mia figlia, se non fanno i festeggiamenti di Natale, dico oddio, perché non fate i festeggiamenti di Natale? Me ne frego totalmente. I festeggiamenti di Natale sono una cosa privata e può anche restare fuori. Ma se la scuola era, cioè, se c'era un'abitudine in questa scuola di suo figlio, c'era a fare un'abitudine nel farlo, ma comunque sia, io sono datato perché ho 50 anni, mi ricordo delle bellissime recite, feste di Natale nei quali c'erano bambini di ogni provenienza. E insomma non gli cade ma non cambia nulla se l'hanno fatto, se lo hanno fatto per non offendere le minoranze islamiche o buddiste o vegane, esatto, quello che è vegane, scherzo, esatto, naturalmente, sì, beh, ma sono degli imbecilli, ma la cosa imbecille, sì, sì, la cosa imbecille è che ci siano comunque sia le possibilità di fare le religiose e allora se fosse laica non ci sarebbero queste cose, mentre invece non fanno il Natale. Va bene, Fabio da Rieti, vai Fabio. Fabio, pronto? Dimmi Fabio, dimmi. Ciao ragazzi, volevo parlare un attimo con David. Sì, eccolo qua, dimmi. Eccomi. Sì, senti David, mi devi fare una grandissima cortesia. Pronti? Visto che stasera è la serata delle scuse, perché non chiami la nonnina? Guarda, la chiamiamo più avanti, la chiamiamo certo, più avanti. Sicuramente. Guarda, sicuramente. È la serata delle scuse, questa qua sembra un po' ridicola. Però per una cosa in cui scusa no, e basta. Gli ma assolutamente sì, ma io l'ho già detto anche ieri. Sei una persona a modo, ma io l'ho detto anche ieri, ti ringrazio. Però quella volta è partita la frizione. Ma no, dai, l'ho detto anche ieri, con lei nulla, anzi, è stata protagonista di un fatto di cronaca e comunque sì, la chiameremo senz'altro e glielo diremo. La mia polemica era con quegli altri, cioè questi signori, non so se sono forconi erano gli altri, ma non schiavo, ma non mi interessa, non me ne frega niente, indipendentisti, la mia polemica era con loro, non con la signora, ma lo chiave gatto, me ne frega niente, ma veramente, cioè mi interessa la signora, non chiave gatto, ma che cos'è chiave gatto, ma non mi interessa, vado via, Peppe, dai, ma è vero che non fare cacciari, ma sembra cacciare, ma no, ma vado via, ma me ne vado, ma vado via adesso, Peppe, dimmi, che vuoi? Ecco. Senti, allora tu io capisco che sei un cinico. Però ho detto che la chiamiamo, non c'era un peligoglione, no, però. No, Fabio, no, dai. No, no, no, per Richard Benson. Lascialo stare, Richard Benson. Lascialo stare tutto. Ma come adesso. Lui? Ma come? Ma lui, no, anzi. Ma sta al gioco, sta al gioco. Ha guadagnato un sacco di soldi con noi, compagno Benson. Fermo. Per farlo strillare. Fermo. Che fa? Muore, che fa? No, non muore, non ti preoccupare. Quella è la sua. Muore in diretta. No, ma no, no, sperando, no, ma che no, dice? Oh? Fermo. Sto ascoltando la zanzara e quindi sono posseduto dal diavolo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la zanzara. Angelo da Roma, vai Angelo, vai. Sì, buonasera. Dimmi. Ma io rimango impressionato, soprattutto quando commentate Quarto Grado e quella... Quarto Grado, che cosa? Quarto Grado, allora dico... Quinta colonna. 100 femminicidi italiani, tutti italiani. Centinaia di camorristi e mafiosi uccisi, tutti italiani. Gli antagonisti che sfasciano tutte le città, tutti italiani. Gli incidenti stradali al 95%, tutti italiani. Cioè tu dici che gli immigrati non sono un problema? No, sono un problema per quanto li riguarda, ma siccome nascondono tutte queste, gli ultra e ben a pennello quella schifosa poesia fatta da quella specie di onorevole. Scusi, gli ultra di Brescia, Bergamo, Verona sono i peggiori. Tu che mi stai dicendo che rispetto a quello che succede nelle città con l'immigrazione, gli italiani fanno di peggio, cioè i veri crimini. Esattamente, ma per numero. Vabbè, ma questo, addirittura. Sì, però Angelo, Libano, scusa, il Libano, 3.800.000 abitanti, Angelo, e ospitano 1.200 sfollati. No, di però scusami, Angelo, però perdonami, i dati sono abbastanza evidenti, cioè c'è un tasso di criminalità in proporzione, ovviamente, molto più alto, ma è normale, molto più alto tra gli extracomunitari o comunque tra gli immigrati piuttosto che tra gli italiani. Ma quello mi pare evidente, perché chi viene qua spesso non c'ha un cazzo e poi ruba. Ma criminalità inteso per criminalità, furti al negozio, microcriminalità, certo, furti, anche omicidi, aggressioni. Assolutamente, certo, ma non è che li sto difendendo, voglio dire, ma perché Salvini e la Meloni non parlano mai degli camorristi a centinaio uccisi dagli altrettanti? Ma ne parlano italiani. Pure, il problema è che la politica, è fatta di certe regole, è chiaro che gli immigrati sono un tema politicamente molto appetibile. Maurizio, provincia di Genova, dai Maurizio. Giuseppe, dai. Ieri sera, buonasera, dimmi. Ieri sera spacco la televisione fra un po', sono andato da mia suocera. Che è successo? Poi c'era la televisione accesa, c'era su Canale 5 Barbara D'Urso che faceva vedere i cani che pagano 500 euro per le pulizie e visto i cani, i padroni, abiti firmati, porca troia, ma che cazzo di mondo è sto qua? Aspetta, stai tranquillo, lì. Raffaello, calmi, ma allora, di chi stai parlando? Non ho capito. Barbara D'Urso, quella lì dovrebbero metterla sullo shuttle e mandarla in cima, perché sta rovinando la gente. Quella gente lì che guarda quelle trasmissioni, il problema non è che le guardano, siamo in democrazia, puoi fare quello che vuoi, ma hanno diritto al voto, vanno a votare, quella gente lì va a votare. Ho capito, Raffaele, tu ti potrai incazzare perché uno veste il cane firmato o veste... Ma non devono... uno può fare quello che vuole, io non voglio che le fanno vedere, io ero da mia suocera, se ero in casa mia, spaccavo la televisione. Che vuol dire spaccavi una televisione? Che vuol dire? Nel senso, no, spaccare la televisione... Basta cambiare canale, Scusa? No, dico basta cambiare canale, non occorre sì, tutta questa violenza. Ma però, no, non voglio dire, è una cosa inconcepibile, che quella lì... Che si fa vedere, è più falsa dei soldi di cuoio quella lì. Fa vedere che ma piange, chi? Fa vedere queste qui, fa vedere quello là. Barbara D'Urso! Ma ragazzi, ma è un numero uno, ma che dici? Dai, su! Ma la finzione fa parte della televisione, bravo, dai! Hanno diritto su al voto quella gente che guarda quelle trasmissioni! Vabbè, hanno dai diritto al e voto! E me che fai? Bisogna togliere, bisogna... Ma chi è che urla? Hanno parla diritto dietro al voto! Chi è che urla? Chi è? Niente. Chi è che urla vai a lavorare? Niente. Chi è? Chi è che dice vai a lavorare? No, sentono gridare. E chi è là? Sì, c'è là. Sentono le voci. Da chi sentire. No, ma chi è là? Ma dimmi chi è là che ha urlato. È di fuori. No, ma non è fuori. Che è fuori? Che abiti in mezzo alla strada. Chi è? Passami la persona che ha urlato. Non è vero. Chi è? Tua moglie, la tua fidanzata? È mio figlio, che rompe. Dice vai a lavorare, giustamente. Ma che cazzo famiglia, stai a fare? Vai a lavorare. Che famiglia. Ma sentire, guarda che... Ah, giustamente tuo figlio dice che cazzo stai a fare, stai a parlare con questi, vai a lavorare, vai a lavorare. E dai, tu mi stai dando ragione. Ma Maurizio, ma che vuol dire? Ma che vuol dire? Scusa, ma perché pensi che quelli che guardano, quelli che guardano là sono dei minus abens? Non ho capito. No, quelli che guardano lì hanno diritto al voto. Ma che vuoi fare? Il livello di cultura. Ma dai, su, ma che c'entra? Ma sono proprio una trasmissione di intrattenimento. Belle, ma che siamo un popolo veramente di capri, allora. Vabbè. Ma scusa, tu guardi con Andrea da Bergamo, dai, Andrea da Bergamo, dai. Ciao ragazzi, pronto, mi sentite? Buona serata a tutti. Merendine per tutti, porca miseria. È ora di finire con questa premiazione del fenomeno che non ha scoperto un bel niente, che il commercio esiste da quando sono almeno infiniti o anche ancora prima. Che cazzo vuol dire premiare uno perché vende le cose in nero? Ma no ragazzi, in nero, ma che, ma che vendere le cose in nero, Andrea? Ma che dici? La legalità, ma che legalità, ma non c'entra niente. Ma perché non ho capito, perché tu non facevi quando eri ragazzino dei baratti e delle cose che bisognava. Ma scusa, ma che deve fare? È stato premiato per il fenomeno. Andrea, ma che doveva fare? Per l'idea, cosa doveva fare? Ma scusa, Andrea, ma che doveva fare? Doveva dire al fisco quanto guadagnava? Non ho capito. Doveva dichiarare al fisco. Questo la legge italiana se lo fa. Ma non è vero, cioè se tu un ragazzino prendi le merendine da un posto e le rivendi ai tuoi amici studenti, deve pagare le tasse secondo te? Ma tu sei fuori di testa, cioè. Ma non è che hai incassato 200.000 euro, dai. Anche le bilde. Ma cos'è? Ha detto 4.000 euro, ha detto lui. Ma anche 4.000 euro avrà fatto in tutto? Sì, 2-3. Ma ho capito. A parte che 2-3.000 euro siamo sotto la soglia di dichiarazione. Comunque mi a dichiararli. E puoi premiare uno per una cosa che cosa ha inventato? L'acqua calda. Ma sì, già, ma è un premio, alla genialità. Al talento, a un'idea, una cosa. No? Scusami Andrea, quello ha visto il prezzo delle merendine del distributore. Ma di cosa ha parlato? Ma frega niente in questa merendine. Ma che roba? Il prezzo delle merendine, diamo il consiglio di istituto, facciamo una cosa come si fa da tutte le parti, ma che cazzo vuol dire premiare uno per un'idea che non ha scoperto Vabbè, niente? Ma, premiano tanti coglioni, premiamo questo qua perché comunque, ma non è che gli hanno dato il premio del secolo, 500 euro. Ma che legalità? Io sono d'accordo con te sul femminicidio che non esiste, ma che c'entra la legalità? Non ha fatto nulla di illegale, No, ma l'educazione, ha fatto bene il preside a dare un segnale, l'educazione, vogliamo che la gente paghi le tasse a 50 anni e premiamo uno che questo concetto non ci ha nemmeno pensato magari. Vabbè, Augusto da Monza, ho capito Andrea, Augusto Monza, vai. Ciao a tutti, vorrei parlare col fenomeno Parenzo, se possibile. Dimmi. Sì, eccoci qua, buonasera intanto, eccoci grazie. Qua, buonasera. Senti, io mi chiedo una cosa. Lei si chiama, scusi? Augusto, caro Augusto, mi dica, come buonasera. Ha potuto trattare in quel modo una signora anziana? Allora, ho già spiegato prima, ieri e oggi, poi adesso la richiamiamo e le chiederemo verbalmente di nuovo in audio, scusa. Ho spiegato la situazione, cioè io non ho nulla contro la signora che ha subito una violenza. La mia era una presa di posizione contro una manifestazione organizzata da della gente che non so neanche chi è io, cioè i dipendentisti veneti, che hanno strumentalizzato un caso. Tutto qua, se ho sbagliato chiedo scusa, l'ho detto prima, l'ha detto chiunque. Posso parlare? Mi domando anche, lei è di origine ebrea se non sbaglio? Ma che c'entra? Sì, no, origine, non c'entra niente. C'entra. Perché come mai c'entra? Non parla mai di che cosa? Del fatto che in Israele ha tirato su dei muri alti. Ma cosa c'entra con l'episodio della nonnina? Cosa c'entra con la signora? Ma il muro è per combattere il terrorismo. Il terrorismo soltanto qua in Italia. Non è vero. Quando invece riguarda altre situazioni altrettanto gravi, dove vengono uccisi i bambini, però scusami Augusto, adesso al di là di questa questione che è una questione molto complessa che riguarda la storia eccetera, sì, appunto, però, sì. Però è paladino del cosa c'entra contro il razzismo, ma non c'entra niente, ma cosa c'entra questo con la vicenda della nonnina? No, di... guarda, hai ragione, cioè la vicenda di Rosina, anch'io la nonnina ha fatto straboccare il vaso della sopportazione, a mio avviso, di questo radical chic. Però Augusto, scusami tu puoi dire tutto quello che c'entra radical chic, puoi dire tutto ma quello che vuoi, dice? Su Parenzo, perché sì, non è perché mi difendo, però la questione è molto semplice, è un'altra, che noi fra poco, non so quando abbiamo la linea, quando troviamo i numeri eccetera eccetera, la chiamiamo e le chiediamo scusa per avere esagerato in alcune frasi, perché ripeto, ma poi glielo dirò anche a lei, pensavo che la situazione fosse di nuovo normale dal punto di vista fisico per lei, eccetera, eccetera. Ci siamo incazzati, ma non ci siamo nemmeno incazzati, ce la siamo presa. Dai, perché però, sei troppo intelligente, è una donna di 86 capito? Ma io sono della parte sua, amico mio, io sono per me uno dovrebbe sparare in bocca, uno dovrebbe sparare in bocca ai ladri. È una vergogna, è una vergogna che quel marocchino che sta ai domiciliari, per me è una vergogna, uno che aggredisce così due vecchi in casa va messo in galera. Ma nessuno ha difeso quel criminale lì, quel marocchino criminale. Ce la siamo presa un po' con quelli che hanno organizzato quella manifestazione. Trovi una dichiarazione di me che io posso aver difeso un criminale, ma state scherzando? Oh. Fermo lì. Fermo dove? Cosa siete dici? Veramente pietosi. La zanzara. Allora, è l'una di notte, sto tornando a casa da lavorare e sento la replica della zanzara. Dopo una giornata infinita di merda, devo sentire che quello ruba la macchina e vuole un milione di euro? Ma vaffanculo! Le voci da Cagliari sugli immigrati. Sentite le voci da Cagliari sull'immigrazione. Questi tranquillamente sbarcano, non solo, li ospitano, li sistemano negli alberghi e poi girano per Cagliari e zone limitrofe, aggrediscono le ragazze, gli puntano i coltelli nella gola e le scippano. Rendetevi conto in che situazione. La Sardegna non deve diventare una Lampedusa. Diciamo a noi cittadini nelle varie piazze, un giorno o l'altro ci saranno i colpi di bastone tra noi e tra i bianchi e i neri, tra noi e loro. No, guardi, e forse molti cittadini sono anche convinti che le istituzioni, siccome fino adesso non se ne sono accorte, sembra quasi che stiano aspettando proprio questo. Allora, abbiamo con noi una persona che abbiamo già intervistato, ma è successa una cosa abbastanza incredibile nei giorni scorsi, che hanno annullato, caro Parenzo, un concerto. Sì. Hanno annullato un concerto di Bello Figo a Brescia. Brescia per... Ma annullato perché? Perché i gestori del locale dove doveva suonare Bello Figo hanno ricevuto minacce. Da parte di persone che non sopportano il fatto che Bello Figo, secondo loro, prende per il culo gli italiani. Ed effettivamente un po' prende per il culo alcune cose che gli italiani pensano sugli immigrati. Ma a mio parere, io che sono contro l'immigrazione clandestina, sono contro questo tipo di gestione dell'immigrazione. Bello Figo, l'ho anche scritto, come sai, Bello Figo ha tutto il diritto di cantare quelle cose e di guadagnare anche su quelle canzoni. Bello Figo, buonasera, ciao. Oh, bella, su e cruza. Come stai? D'accordo. Come stai? Bene, te? Bene, bene, non c'è male. Senti, ti chiedo una cosa, ma tu che cosa sai di questo concerto annullato, amico mio? No, io mi sono svegliato la mattina, ho visto solo i post che loro hanno pubblicato, tra l'altro non ho parlato con nessuno degli organizzatori, hanno fatto la loro scelta, l'hanno fatto tutto loro, quindi non ne so tanto neanche io. Ma hanno ricevuto delle... ti hanno avvertito, hanno ricevuto delle minacce, così abbiamo letto, no? Che hanno ricevuto delle minacce, dunque hanno avuto paura. Sì, secondo me sì, ma le solite robe che succedono anche nelle mie serate di solito. Solo che c'è chi invece c'ha le palle e li fa, e c'è chi invece magari ha paura. Cioè, ma secondo te hanno sbagliato? Hanno sbagliato ad annullare il concerto? Hanno avuto troppa paura? Molta gente erano interessati, quindi comunque almeno magari mi sentivi, ti dicevo com'è la situazione, di solito fai così, ricevi queste cose qua. Perché però poi non fanno niente, Io ho fatto questi concerti fino adesso, per fortuna sto sempre bene e tutti stanno bene, quindi sono sempre minacce che arrivano sui social, poi dopo ovvio che non... Poi non succede nulla, poi non succede nulla. Senti, ma quando qualcuno ti dice, anche da noi molta gente chiama e ti dice basta con questo qui, addirittura qualcuno bisognerebbe ammazzarlo di botte, massacrarlo perché piglia per il culo noi italiani, perché si mette dalla parte di quelli che vogliono tutto, 35 euro, il wifi, eccetera eccetera, tu come rispondi a questi qua che dicono ci sta pigliando per il culo, eccetera eccetera, come gli rispondi? No, vabbè, io non vedo come dovrebbe far incazzare una persona quando dico sto in albergo, anche perché è la verità. Però comunque è arrivato a questo punto, forse quella gente lì deve capire che io quello che faccio, non so se io non sono un prof, non vivo veramente in coso. Se poi la canzone ti può dare fastidio in modo civiltà, a quel punto il problema non sono io, il problema è che sei tu che sei cattivo, sei un criminale, che vuoi fare male no, a una però persona lei, che... scusi, cioè quelli bello. Che ti criticano, quelli che ti criticano sono dei criminali secondo te? Ma se tu minacci una persona e gli vuoi mettere le mani addosso, cioè allora tu non minacci nessuno, tu non fai male a nessuno, no? Cioè non è che il mio crimine qual è? Che dormo in albergo, allora se è vietato dire una parola del genere, io mi vado a vedere tutte le cose che è vietato su... Però una quando tu dici, però è vero, bello figo, quando tu dici però voglio wife, com'è che fa quella su wifi? Wifi. Quando tu parli del wifi, alla gente gli sta sui coglioni il fatto che le persone vogliono il wifi. Assolutamente, anche che mi svegli al pranzo, uno dice io mi sveglio la mattina e tu ti svegli al pranzo e mi sei scioccato, ma non minacci di mettere le mani addosso a una persona. Lo so, però la gente dice io mi faccio un culo così, arriva questo. Che dice... Ma lui ha fatto solo una canzone, no, però adesso può essere deprecabile fino a quando volete, può essere brutta, può essere provocatoria. Ma non ha mai minacciato nessuno, sto signore è un signore, come direbbe Fede, ma è improbabile, non frega niente di questo qua, uno si chiama bello, ma che me ne frega, però è un signore che se ha i capelli gialli e di colore, che è italiano, che ha fatto questa musica, che può piacere o non piacere, ma non ha mai toccato nessuno neanche con un cappello, ma me fa schifo. Assolutamente. Ma poi che stupro le donne, cioè non c'è neanche la forza lei deve riconoscere che ha fatto una canzone lei, apposta. Io do lei a tutti da oggi. Voglio tenere le distanze. Lei ha fatto una canzone apposta provocatoria, perché questo è fuori di dubbio. Sul fatto che gli piace scopare le belle fighe bianche, ma qual è il problema? Ma non ho capito. Eccolo. Ma te, ha detto una cosa che vogliono fare tutti quelli che lo criticano. No, tutti vogliono fare la stessa cosa, ma vogliono scopare le donne. Dai. Ma cosa stai dicendo? Ma non è vero. Bello figo, è vero o no? Ma cosa dici? Ok, almeno che uno non sia gay, a me piace andare a letto con le donne. A te piace la figa, diciamo la verità. Vabbè, è meglio perché vedi il contrasto, no? Dici anche perché, tu, perché ti piacciono perché ti piacciono le bianche? Bello figo. Vi ho spiegato già prima, una scelta proprio va a pelle. A me piacciono le bianche. Ti piacciono le bianche anche per una questione di coso, secondo me, anche di rivincita sociale, cioè la rivincita vuoi. No, può essere, ma proprio sinceramente a pelle mi piacciono più le bianche, perché ma sei dispiaciuto? È una cosa più suona. Sì, a pelle. Ma sei dispiaciuto perché Renzi ha perso il referendum? Che sì, per il fatto che... O non te ne frega niente. No, che mi sia simpatico, che sia dimesso, sì, mi dispiace, certo. Ti dispiace, no? Ti dispiace. Ma risorgerà come l'araba fenice, può darsi, no? Sì, no? Allora, secondo te risorgerà? Speri. Però lo vorrei rivedere magari... Premier. Lo vorresti rivedere Premier. Ecco, senti, comunque ha messo una pietra tombale sulla possibile carriera di Renzi. No. Senti, quelli che ti attaccano sono dei razzisti schifosi. Come li consideri quelli là che ti attaccano, che non ti vogliono far fare il concerto? La Mussolini, come la consideri, per esempio? La signora Mussolini. Ma la Mussolini forse è una di quelli lì che non hanno capito magari la roba che faccio e pensano che pensano quello che pensano. Ma io credo sinceramente, io credo che a prescindere che io dico o non dico quelle cose, io passo in mezzo alla strada tranquillamente, uno mi vede, la prima cosa che mi vede, questo negro di merda, c'è gente che lo pensa comunque, poi dopo ovviamente se vogliamo fare finta di... Ma tu hai paura di girare adesso o no? Dopo da quando sei andato... Io giro tranquillamente nella mia città. Non ti dice niente nessuno? No, Parma, gente tranquilli, come dici tu, tranquilli. Senti, però, ma secondo te gli extracomunitari hanno veramente diritto al wifi? Cioè fanno bene a protestare quando allora, non hanno wifi? Dimmi la verità. Italiani, quelli che arrivano e protestano perché non hanno il wifi. Un esempio, extracomunitari, chiunque ha bisogno di... Quindi se loro lo dicono, tutti hanno diritto al wifi, esatto, del cibo buono, della accoglienza, l'albergo. Sì, anche, ma questo non vuol dire, io dicendo questo non vuol dire che io godo che gli italiani stanno male, assolutamente questo non è vero, cioè nel senso sia se si può aiutare gli italiani, sia gli italiani che gli immigranti, poi dopo decide chi ha potere e chi ne sa di più, no, sicuramente non sono io che posso aiutare. Ma che furbacchione? Uno che guadagna su queste canzoni, ragazzi. È un furbo. Ma qual è il problema? È uno italiano, furbo, originario del Ghana, che prende. Ma frega niente a me, ma che cosa? Ma frega niente, ma è ovvio. Cioè... Senti, gli italiani secondo te sono razzisti? Secondo me sì, secondo me alcuni, il fatto che no, sono, non gli italiani, non tutti, alcuni, no, alcuni. Vabbè, però sono razzisti. Senti molto razzismo in Italia. Secondo me è proprio il fatto che lo faccio io, perché io comunque vedo online anche i ragazzi youtuber che fanno ironia su certe cose, cose qui, e sono famosi, hanno un sacco di visualizzazioni. Non succede niente, è proprio il fatto che lo faccio io, a volte viene preso di mira anche per quello. Vabbè, ma non è un problema. Che te frega, te che cazzo te frega, ma che te, basta che guadagni, a te che te frega. No, basta che mi diverto con i miei amici e faccio divertire i miei fans che fino dal 2012 mi hanno sempre seguito fino ad ora e canto per loro. Quanti soldi prendi per un concerto? Concerto di solito li faccio gratis, ma i miei procuratori delle serate, se mi fanno guadagnare qualcosa, sono contento. Anche quello. Io tu dici per adesso gratis, per adesso gratis i concerti? No, io guadagno più con YouTube. Con YouTube. Fino adesso quanto hai fatto? Vogliamo dirlo in tutto. Quanto hai fatto da quando fai queste cose, queste canzoni su YouTube? Quanto hai fatto? Da quando canto fino adesso 47 milioni di visualizzazioni in tutto. No, ma i soldi, quanto è in tutto? Soldi. No, quello non lo so, non so di 30.000, 40.000, quanto hai fatto? Attorno a quello, sì, perché comunque chiudiamo con una canzone, ragazzi. Non rompete i coglioni, fateli fare i concerti. Chiudiamo con una canzone, veloce, quella che vuoi tu. Vai. Vai con Stasera Scopo. Vai, falla un attimo. Vai. Oh. Ah, la canto io. Vai. Stasera Scopo e sono felice e Swag. Ciao bello, a presto, ciao. Bella, bello figo, ciao. La Zanzara. Get your motor running. Head out on the highway. Bello figo, è bello con una spranga nel cervello. Bello figo, è bello con una spranga nel cervello. Bello figo, è bello con una spranga nel cervello. Ragazzi, ma voi siete matti, oh, ma perché ve la prendete con bello figo? Cioè, ma che cosa fa questo ragazzo? Questo ragazzo è uno che scrive delle canzoni su alcune cose che fanno gli immigrati. Diciamolo, ma canzoni assurde sono, perché non fa neanche assurde un favore agli immigrati, effettivamente. Questo perché non lo so, questo lo pensi tu, cioè, ma che me ne frega qua, a me? Io penso che questo bello figo faccia pandan con quell'altro che ha scritto la canzone contro i migranti. Cioè, non è ma questo, che sei scemo, veramente. Ma sicuramente, ma è un furbettino, ma un furbo. Dopodiché, dire spranga del cervello. Vabbè, comunque, pazzo, guarda, questo qua ti saluta qui un avvocato partenopeo che è qua. Ciao Beppe, buonasera. Ciao, okay, ciao. Perfetto. Un avvocato partenopeo. Avvocato dal casello di Carisio, voglio ridere. Eccolo, avvocato partenopeo. Stimato anche. Però Giorgio da Milano, vai Giorgio. Sì, io da oggi voglio avere un avvocato in tutte le tempute, sempre vicino. Da oggi ho sempre in trasmissione un avvocato vicino per proteggere da tutto quello che è. Giorgio sempre da Milano, vai Giorgio. Lei è d'accordo, avvocato? D'accordissimo. Grazie. Giorgio, vai. Ciao, senti, io ho il riferimento a ieri, ai forconi, a Napoli. Giorgio, i forconi, ancora i forconi. Si possono chiamare minchioni, avvocato, i forconi o no? Una volta voglio darle ragione, perché io non li chiamo forconi, ma li chiamo forcazzoni. Forcazzoni, sì, cioè? Questo sono, perché questo, però ci da stare attenti, perché ieri ho saputo tramite la vostra trasmissione che c'è un generale in pensione, non c'è, non si può avere paura del signor Pappalardo, bravissima persona, no, capisco, però sai, un generale in pensione sa sempre dei segreti che magari chi lo sa. Ragazzi, se questi qua sono pericolosi, io sono praticamente il divino Telma, dai, su, dai, cosa che non sono, per carità, però senza nulla, senza nulla. Appunto, sono dei cazzoni più che altro, sono dei cazzoni. La cosa che mi stupisco è che ieri non sono intervenuti i carabinieri o addirittura quello. Infatti io ho chiamato per quello, scusami se ti interrompo, ma io nel video, perché l'ho rivisto ieri sera dopo che ho sentito la trasmissione, ho visto che i carabinieri avevano le mani in mano, non sapevano nemmeno loro cosa fare. Ma quando c'è un'aggressione, quando estranei toccano un'altra persona, non dovrebbero intervenire a prescindere di quello che sta succedendo? Ieri secondo me i carabinieri erano del tutto impreparati, non vorrei che ci fosse una seconda situazione del genere e non sanno cosa fare. A parte che li hanno denunciati alla fine. Io ho visto il video, scusa che ti interrompo, ho visto il video, loro non hanno fatto un beato cazzo, scusa il termine. Beh, insomma, il termine è opinabile. Diciamo che lì non è che bisognava intervenire con le armi, però bisognava prendere questi signori, portarli in questura, dice lei chi è, chi non è, cosa sta facendo e denunciarli, ma pare che la denuncia... Ma hanno le mani dietro, c'ho il video di fronte, sto guardando qua, su YouTube, c'ho il video, fermo immagine. Forconi, ragazzi, io divento pazzo, sono legato ai carabinieri, li voglio... Anzi, per carità... grandissimo lavoro, fanno, però ieri non sapevano cosa fare, cioè, c'è un e poi è vicino al Quirinale, vicino al Parlamento, cioè c'è da stare attenti, secondo me hanno bisogno di un po' Vabbè, di formazione. Enrico da Milano, vai Enrico. Pronto? Dimmi, dimmi Enrico, dimmi, dimmi. Ascolta, so se mi parenzo che ogni tanto va anche lui in casino. No, oggi sentivo la trasmissione. Buonasera Enrico. Almeno un quarto sul canale. Io non so se era un vostro collega che ha fatto. Si è collegato con un immigrato, telefonava dicendo che lui sta bene, non so che paese era, se provincia di Milano, che cosa. Ho sentito solo che diceva: io sto bene, mi prendo le mie 35 euro, faccio i cazzi che voglio. Non so, quello il famoso che poi avete parlato 5 minuti fa. Bello, dico, figo, bello figo, sì. Ecco, allora? Dico, ma cioè tu sei incazzato perché per questa storia qua dei 35 euro al giorno, in sostanza? No, io sono disoccupato, ma io non ce l'ho con loro, per carità. E con chi ce l'hai? Con lo Stato che gli dai i soldi? Eh? Con lo Stato che gli dai i soldi, con chi ce l'hai? Sì, con lo Stato che gli dai i soldi. Cioè, noi siamo italiani, siamo residenti qua. A Milano, cioè i 35 euro li dovrebbe non dare non a te. Dà 35 euro agli immigrati. Beh, alle associazioni che alle vengono associazioni. Usate per gestire comunque l'emergenza, non gli vengono dati al giorno 35 euro. No, questo non si sa. Sì, sì, non gli vengono dati in mano 35 euro. Dai, questo si sa. No, non si sa per niente. Ma è uguale, dai, costano 35. Ma non frega niente, ma non si sa. Che cosa dite? Ma incredibile, l'ha dichiarato lui in persona. Vabbè, Enrico, sei incazzato perché quei 35 euro li vorresti tu che sei disoccupato italiano, giusto? Sì, ma a parte quello, lo dico sinceramente. Però dico, io come comune di Rozzano qua, io abito nel comune di Rozzano. Che succede a Rozzano? Los Angeles. Allora? Los Angeles, bravo, bravo. Una volta, adesso sì, lo so. Allora? Comunque, sono tutti immigrati qua. Allora? Gente che non fa un cazzo dal mattino alla sera. Sì. Io faccio fatica a trovare un posto di lavoro, che ho una certa età. Ti sta sui coglioni che vengono mantenuti un po' dallo Stato, diciamo, tra alloggio, 35 euro, wifi, io tutto quello che dice bello figo. Io sono contento se tipo bello figo, che siano persone regolari. Vabbè, Enrico, non ho capito un cazzo. Tu sei incazzato perché sei disoccupato e lo Stato paga questi immigrati. Vabbè, ciao Enrico, certo. ciao. Certo. Ciao. Chiamiamo Rosina, dai, facciamo le scuse a Rosina per alcune frasi che abbiamo pronunciato. Ragazzi, noi siamo capaci anche di chiedere scusa. Ci siamo resi conto che quella telefonata lì era una telefonata ad una persona colpita da tre marocchini, rapinata. Volevamo prendercela soprattutto con quella manifestazione sotto casa del marocchino. Bravo. Non abbiamo nulla, anzi io, figuriamoci, per me poteva anche ammazzarli quei marocchini, non avrebbe fatto niente di male, nel senso dentro casa ovviamente, non dopo. Però chiediamo scusa e basta. Beh, così. Chiediamo lei, è una cosa giusta. Dai, è una cosa giusta. Pronto? Rosina, dobbiamo chiederti scusa per quello che è successo l'altro giorno. Sono Cruciani della Zanzara. Scusami tanto. Veramente ti dobbiamo chiedere scusa, credimi. Dovevate pensarci prima. Ascolta, abbiamo quasi 70 anni, più di 70 anni. No, ma hai ragione, hai perfettamente ragione. Il problema è che davvero non volevamo prenderti in giro. Noi volevamo semplicemente prendercela con quelli che ti hanno portato lì sotto casa. Ma non con te, non abbiamo nulla contro di te, figuriamoci. Anzi. Caspita, mi avete chiesto qua. Perché sono andata sotto casa sua? Ma non sapete cosa sono venuti a fare qua in casa mia? Sì, no, ma infatti lei ha perfettamente ragione, volte, signora. Guardi, abbiamo fatto più di un mese di ospedale. Io le chiedo scusa, infatti, signora. Guardi, con la testa tutti rotti, tutti fracassati. No, ma guardi, la, non solo. Sì, io le chiedo solo scusa e volevo soltanto dirle che io me la sono presa soprattutto con gli indipendentisti e non con lei. Lei ha tutte le ragioni del mondo e le volevo, se serve, chiedere scusa e chiedere cosa possiamo fare per lei, per darle anche la solidarietà. No, io me la sono presa molto, e le chiedo però scusa ancora, con gli indipendentisti. No, ma ripeto, non è importante, noi le vogliamo solamente chiedere scusa se abbiamo usato delle parole eccessive nei suoi confronti, se l'abbiamo presa a ridere, pensavamo che lei stesse meglio, non ci siamo resi conto del trauma che lei ha vissuto, veramente le chiediamo scusa, accetta. Allora, una cosa sola. Sì, sì. Là sul giornale, quel giornale là, è scritto che lui mi chiedeva scusa, che è saltato dentro dalla finestra quando ci ha sentito urlare perché ci avevano tutti stagliuzzati col coltello e sangue dappertutto? Sì. Non è vero! È quello lì che è venuto a prendere il coltello per infilarmelo sulle costole, perché me l'avevano fatte poche. Rotto lo specchio, un grande stecchiere sulla testa, un trauma cranico. Ma ha chiesto scusa a lei o no, questo signore marocchino? Io sono andata là apposta con una signora e ti ho detto, Abramo, in italiano si chiama Abramo. Ok. Ho detto, adesso se mi vuoi chiedere scusa, sono qui personalmente io. E lui? No, non si è fatto, non è uscito per niente, non è uscito. Io ero assieme a un carabiniere in borghese. Ma non dovrebbe, secondo lei non dovrebbe stare ai domiciliari, dovrebbe stare in galera? Dovrebbe stare Beh, là. Quello, certo. Dovrebbe stare, ma anche secondo noi dovrebbe stare in galera. Le ripeto. Al suo posto ho chiesto e ce lo chiederò ancora che quell'avvocato che l'ha difeso e che il giudice che l'ha lasciato uscire devo chiedere la prigione o il resto di galera che deve fare lui a non loro che lo facciano loro al suo posto. Ma lei ha paura che lui possa ancora venire a casa sua, che uscendo dagli domiciliari o comunque libero possa fare del male? È sempre fuori, lo vedono fuori in paese, non so se va a farsi le spese o che. Lui è solo a 5 chilometri qui in linea d'aria da me. Dunque lei ha paura ancora di questo signore? Santa Madonna, sicuramente, me li vedo ancora incappucciati davanti agli occhi e saltare come i demoni. Comunque, saltavano, urlavano puttana. Comunque noi volevamo chiedere solo scusa intanto. È puttana dove la casa... Ma quale cassaforte che abbiamo fatto 80 anni in due in Svizzera a lavorare con i cretini? Quale cassaforte? Rosina, io guardi, davvero sono dalla parte sua. Se abbiamo esagerato, perché abbiamo esagerato in alcune frasi chiedendole perché è andata là sotto, eccetera. Esatto. Chiediamo scusa, davvero. Assolutamente. Noi di solito scusa. Non chiediamo mai scusa perché abbiamo sempre, come dire, siamo fatti in un certo modo e non rinneghiamo mai quello che facciamo. No. Però in questo caso davvero le vogliamo chiedere scusa. Cioè, accetta le nostre scuse, signora Rosina? Oh, le accetto. Abbiamo mio marito che non cammina. Sì. Era 100 kg prima di questa storia e adesso è neanche 60 kg, non sta neanche più in piedi. Ci hanno dato un sacco di botte, ho rotto il viso, il seto nasale, ci hanno fatto tagliata tutta la testa. Guarda che condizioni, che non cammina neanche più mio marito. Senta, ma io non ho capito, questi qua che le hanno fatto del male invece, vanno cacciati dall'Italia immediatamente questi marocchini? Li vuole dire? Del male. Comunque signora, possiamo fare una grande riconciliazione tra noi e lei, perché veramente noi siamo dalla parte sua e abbiamo utilizzato delle frasi sbagliate. Vogliamo darci un abbraccio virtuale? Assolutamente. Sì, accetto. Come a dei nipoti, signora, come a dei nipoti. Certo. Grazie. Signora, grazie, scusi ancora. Va bene. Ciao Rosina. Ciao. Arrivederci. Ciao, scusaci. Saluti, signora. Ragazzi miei, dai. Giusto, dai. Dai. Meno male, su. Forlenzo, provincia di Latina. Forlenzo, vai, Forlenzo. Eccomi qua. Dimmi. Allora, volevo dire una cosa. Se la stanno prendendo tutti quanti con Bello Figo, sì. Che assolutamente, per l'amor di Dio, è vero che prende in giro gli italiani. Però perché nessuno ha fatto un casino, una polemica o se l'è presa con Razzi? Quando fece esattamente una canzone che faceva proprio così, fammi campa, tira canta, dove prendeva per il culo tutti gli italiani, in cui lui ammetteva di aver fregato, rubato, essere stato adesso, un ammetteva di aver rubato e fregato, no amico mio, dai su. Oh, ma diceva, caro amico, no, ma hai ragione, Rodrigo, hai ragione, fateli cazzi tua, dai, sì, ma è una cosa, era l'elogio, un parlamentare, una cosa del era l'elogio del farsi i cazzi propri e non pensare, diciamo, benissimo, e pensare soprattutto a se stessi. Sì, brutto, però allora, una, quello che voglio dire è una, la mia un paragone, sì, che sì. Ci può stare, è un paragone che ci no, può stare, no, però la mia chiamata, quello che voglio dire, è per ricordare a tutti gli italiani che si stanno incazzando con Bello Figo di incazzarsi anche con quello lì, che non voglio usare sì, queste bravo, parole, certo. Ma la gente si è incazzata con Razzi, ha voglia, amico mio, ha voglia. Ma guarda, cioè, ma come no? Una vergogna è quello lì, perché quello è un italiano che prende per il culo gli italiani e nonostante questo prende per il culo la povera gente, porca miseria. Ma lui dice... viene da è stato povero un sacco di anni, che non dire cazzate. Ma io l'ho capito, guarda, io non ho brutte parole per l'onorevole Razzi, perché non mi permetto, capirai, una persona più grande di me. Però gli italiani devono ricordare anche questa cosa e se si indignano con Bello Figo, per favore si indignassero anche con Razzi, lo chiamassero ora sotto casa sua tutti quanti a dirgli, oh, ma che cazzo di canzoni fai? Dai, ma veramente. Ciao. Tutto ciao, qua. Ciao. Grazie. Ciao. Un saluto da Boston a quel puzzone di Cruciani con le mutande sgommate e a Parenzo, l'uomo più odiato d'Italia, che per me è un eroe. La Zanzara. I was made for loving you, baby. You were made Allora ragazzi, abbiamo fatto le scuse alla signora Rosina Fracasso, se non sbaglio, provincia di Padova. Scusa, nella giornata di oggi sono arrivati messaggi tremendi contro di noi, Parenzo, tremendi. Noi comunque li facciamo ascoltare perché questa è una trasmissione libera. È una trasmissione dove la gente si permette anche di tirarci addosso le pietre e noi prendiamo anche queste pietre. Parenzo, gran pezzo di merda, io spero che la faccia tua venga stirata bene bene, senza appretto e senza sferro da stiro a vapore a secco, pezzo di merda. Tu non puoi dire alla Rosina quello che vuoi, brutto maleducato, perché se la Rosina era mia nonna, venivo lì dopo che gli avevi detto quello che gli hai detto e il ferro da stiro te lo stampavo sulla faccia a te, hai capito, cretino? Stavo ascoltando la storia della nonnina, sei un grandissimo pezzo di merda! Parenzo, sei una vergogna. Se succedeva a dei miei familiari, a mio padre, a mia madre, che li torturavano con un ferro da stiro, ma stai scherzando, ma altro che andare sotto casa, era da incendiargliela di notte la casa, così imparano a prendersela con due vecchietti di 80 anni. Altro che, dai Parenzo, non posso crederci, guarda. Allora ragazzi, qui nessuno, a parte che alcune parole scherzose di attacco alla nonnina le ho pronunciate pure io, nessuno ha detto qualcosa a favore di quello che ha picchiato la nonnina. Nessuno in nessuna occasione, anzi l'avevamo già chiamato una volta la signora Rosina, sì, e l'abbiamo, sì, a meno io mi ricordo, che l'ho difesa in maniera, ma lo difendo anche adesso, certo, non me ne frega un cazzo. Vabbè ragazzi, dai. Ed ora Donald Traffico. La Zanzara. No, no, i poliziotti vegetariani, no! Allora, Claudio, provincia di Como, vai Claudio, vai. Ciao, ciao Cruciani, buonasera a tutti. Dimmi, dimmi. Sentivo prima che ti tirano, vi tirano le pietre, qua oggi mi sa che vi conviene pigliare i sassi, i massi, perché non puoi far cantare, se cantare si può dire, bello figo, quella canzone orrenda che fa inibrire tutti i cantanti storici italiani, non che abbiamo, che ma ascoltiamo. Tu lo sai che bello figo ha fatto pure una canzone a favore dei Marò, ma ha fatto allora una canzone a favore dei Marò, cioè ovviamente non sa un cazzo dei Marò, cioè, però ha fatto una canzone a favore dei Marò. Solo una cosa, la musica è bella perché esprime, vabbè, ma libertà, quello che è non quello è... Che... no, beh, quello. E allora? Ma far cantare una capra come quello che dice che gli altri, scusa, che erano dei delinquenti, quelli che, ma già qua non ci stiamo proprio, trova un altro ma cantante. Chi? Questo è segato in proprio, bello figo, zero assoluto. Buona serata, buona ma perché zero, che vuol dire? Che vuol dire? È zero assoluto. Non ma gli non piace, come non gli piace, gruppo, basta, va bene. Non piace, mia opinione, questo rovina la musica. Buona serata. Vabbè, Carlo da Frosinone, vai Carlo. Chi è questo rumore? Davide, che c'hai accanto? No, non è il mio. Dai, dai. È il telefono dell'avvocato? Neanche, no, sono dai, tutti chiusi. Claudio dalla provincia di Como e Carlo da Frosinone, dai. Ecco, sono Carlo di Frosinone, ok? Dimmi, Carlo, dimmi, sì, fino a prova contraria, volevo... sì. Sì, ok. Volevo fare due piccole puntualizzazioni. Allora, intanto che l'Italia, gli italiani secondo me non sono razzisti, assolutamente. Vabbè. C'è l'italiano un po' più colto che può essere... Poi? Che può essere, ecco, se mi devo due secondi di tempo, te lo dico. L'italiano un po' più colto che capisce che questa situazione dell'immigrazione è stata gestita malissima. E l'italiano... Va bene Carlo, poi che cosa vuoi dire? Dimmi. E la seconda cosa invece, che è un po' più preoccupante, un po' più una provocazione, provocazione. Ricordare che lo sbarco in Normandia ha portato delle vittime. Lo sbarco, indienti, lo sbarco in Normandia, ha... no, non ce la faccio, aspetta, lo sbarco in Normandia, aspetta, amico mio. Due secondi. Ma è attuale anche, soprattutto. Dai, un Carlo, tema attuale. Ma cosa vuoi dire? E hanno destabilizzato Hitler. questi piano piano hanno fatto un altro sbarco, e stanno mandando giù tutti i governi. Questo è. Cioè, non ho capito che tu dici che stanno facendo un'invasione gli immigrati in questo senso? Non certo le persone fisiche che vengono qui, ma secondo me è pilotato, perché è una cosa anomala. E comunque guarda che dovunque stanno andando, Germania, la gente è incazzata e butta giù i governi. Dimmi se ho torto, poi se, va bene, Carlo. Ciao. Ok, ciao. Allora, abbiamo con noi, caro Parenzo, Igor Righetti. Bene, ciao molto Igor, bene. Ciao Igor. Buonasera, buona comunicazione, Zanzaroni. Sono anni duri per le trasmissioni scomode. Beh, scomode adesso. Tu facevi una volta una trasmissione su Radio Rai che t'hanno cancellato praticamente. Appunto, no? lo dico, l'ho detto apposta. Diciamolo. Lo sai, dopo 12 anni, 2500 puntate, quindi chapeau però ai dirigenti Radio 24 che a quanto pare guardano i grandi ascolti di un programma e la raccolta pubblicitaria. Non lo dire troppo forte. Perché... Mi piace sto Righetti, mi sei invitato tutti i giorni. Per ora voi ci siete, vi danno la voce, insomma, non mi sembra. Allora, caro Igor, brava persona Igor Righetti, bisogna dirlo subito chiaramente. Ma... molto cortese. Allora, Igor Righetti, l'altro giorno era in una trasmissione televisiva. Diciamo chi è però Righetti, anche al grande pubblico. Conduttore radiofonico, giornalista, docente di linguaggi della comunicazione. Ma soprattutto docente di linguaggi della comunicazione, cioè non è anche un intellettuale, non è soltanto uno speaker. Adesso non esagerare, dai, assolutamente un intellettuale si offende magari se dice intellettuale. David, tutto in un'unica persona. No, scusate, oggi ho un po' di problemi con questo sdoppiamento vocale. Intanto si inserisce per Senti, Igor, ma è vero che tu fai delle cravatte per il tuo cane? Sì, io faccio disegno delle cravattine per te. Le metti al tuo cane? Le metto al mio cane in certe situazioni, ovviamente, perché il mio migliore amico è Byron, si chiama Byron, sì. Sta ascoltando la trasmissione, quindi mi raccomando, attenti a quello che dite, perché è molto permaloso, è un bassottino. Ma non può capire niente da una trasmissione radiofonica un cane. Tu pensi veramente... Ma non è detto. Con voi riesce a entrare... Riesce ad afferrare, siamo talmente basici. Questo poi glielo dobbiamo chiedere, Però so che vi segue con grande interesse, quindi ma veramente tu gli metti ogni tanto dei cravattini? Dei cravattini, dei fularini che ho fatto io, che disegno io. Dei fularini? Perché gli metti dei fularini? È una dimostrazione di affetto, indubbiamente. Amico mio, però che ci fa sto cane col fular? Perché non ci sono campagne, attenzione, allora, l'eccesso dà fastidio anche a me, ma qui non stiamo parlando di cappotti, quando fa caldo e via dicendo, gli stessi cappotti. Si devono usare quando il cane, per esempio, ha un pelo corto come il mio, le case oggi sono ultra riscaldate con i riscaldamenti, chiaramente. Quindi l'inverno, quando per esempio esce, lui trema tutto perché dunque tu gli metti il cappotto, molto caldo, e per forza, se no, questo non è neanche esce, si fa la pipì sotto perché ovviamente viene preso. Il cappottino, come glielo compri il cappottino, Igor? No, guarda, il cappottino è molto, le cose molto semplici, non parliamo di cose costose, certo. Ma comunque, cioè, la 100 euro la spendi o no? La 100 perché, euro? No, meno. E che? No, tant'è che guarda che anche le cravattine le faccio io. Perché i fularini come sono? Di chatouche. I fularini, guarda, fularini, ma anche aggressive. A lui piacciono anche quegli animalini, no? Perché è un cane che non si prende troppo sul serio. E quelli un po', sai, tigrati. Il fularino tigrato. Le coccardine. Sai quelle dei bambini quando attacchi quando nasce un... Ma lo fai quando perché, scusa? Cuccioli, ma lo fai per lui o per te? Perché no, lo fai per te. Lui si diverte come un pazzo, perché alla fine, come dicevo, non ci sono campanelline che tu sai l'ora. Ma non si può divertire con la cravattina, Igor. Non si può divertire. Sì, ma guarda, che alla fine. Perché non è dannoso. Ma non sto dicendo che è dannoso, è una cosa da malattia mentale, ce lo fai più per te che per il cane. Sembra quasi. Tu lo devi vedere come gode. Cioè, gode col cravattino, gode col furandino. Sì, tu lo vedi, è proprio l'espressione soddisfatta. E quindi fa felice anche me, perché è il mio migliore amico. Ma... dorme con me sulla sua copertina, ovviamente. Ma pensa che anche mio zio dormiva, Alberto Sordi, stava, dormiva con i propri cani. Tu lo sai che lui è nipote di Alberto Sordi, certo. Nipote alla lontana, certo. Che gradi ci sono? Terzo, quarto grado. Anche questo nipote alla lontana mi fa sorridere, sai perché? Perché lui, non avendo avuto figli, e neanche esatto. Le due sorelle, nemmeno il fratello, e non ci sono altri parenti. Cioè ci siamo soltanto noi. Di quale grado che... sei? Che allora, ne so io? Di quale grado sei tu? Noi siamo tutti quinto e sesto grado, perché non ci sono i gradi intermedi. Non avendo avuto figli né lui né le sorelle né il fratello, chiaramente. Scusa, perché rivendichi una parte dell'eredità? Perché pensi che l'eredità, quella della sorella, sia una truffa? No, ma non è. Allora, noi abbiamo saputo, tra l'altro, dai giornali, come voi sapete, e siamo stati chiamati proprio dalla magistratura a intervenire dopo che sono stati inviati a giudizio ben 10 persone, ricordiamolo ai tuoi tanti ascoltatori, 10 persone, tra cui 6 domestici, l'autista peruviano che poi andò in Perù. Per aver turlupinato Alberto Sordi? Per avere, sì, c'è un presunto raggiro di 2,5 milioni di euro, sai, siamo sempre condizionati così. Ma diciamo, quando ci sono i soldi di mezzo è sempre un disastro. Cioè tu quanto vorresti di questa eredità? No, noi vogliamo conoscere la verità, perché chi offende la verità deve essere punito, e soprattutto le volontà di Alberto vanno rispettate, perché devi sapere che qui ci sono due fondazioni, che sono quelle che costituì mio zio Alberto Sordi. Sì. Quella fondazione per anziani, Grigoria, di cui si parla molto, e poi la fondazione per giovani, che è quella di cui è presidente. Cioè la sorella Aurelia fu truffata, secondo te, la sorella Aurelia? No, la mia Aurelia, che cosa è successo? Nel 2011... Vabbè, non facciamo tutta la storia qua. È nata questa terza fondazione, no, perché si deve capire, la terza fondazione, la fondazione museo. Ebbene, questa fondazione museo, nata 8 anni dopo Alberto, questa fondazione museo non l'ha mai istituita, quindi sono state tradite le volontà di Alberto. Perché? Perché il mese dopo, cioè a aprile, Quanti siete che rivendicate? Ad aprile 2011 tutta l'eredità, tutta appunto l'eredità universale è stata decretata questa terza fondazione. E chi c'è in questa terza fondazione? Chi l'aveva costituita? L'autista Arturo Artadi è tra i soci fondatori. Che è un truffatore secondo te? Che è un truffatore secondo te? Ma non è un truffatore, comunque vedi, poi lo dirà la magistratura questo, perché sai che il processo... Vabbè, ma voi quanto, secondo voi va divisa in un altro modo, cioè dovete usufruirne certo anche ci voi? Sono... No, ci sono, allora vanno rispettate le volontà di Alberto. Ci sono due fondazioni, la terza non c'entra, un fico secco con la mandorla. Amico mio, non andare, vedremo quello che succederà. La cosa principale, amico mio, non trattare male troppi cani o il tuo cane col cravattino. Io no, anzi, casomai bisogna veramente chi tu preferisci vivere, animali, tu preferisci in questo caso come maltrattamento? Preferisci dormire con il cane piuttosto che con una bella donna? Che c'entra? No, ma così per dire. Ma guarda che uno non esclude l'altro, assolutamente. O con un bell'uomo, che ne sai. A meno che non soffra di... No, va bene donna, ma non so, a meno che non soffra di ovviamente di allergie, perché, ma non credo... Tu ci dormi spesso col cane, ci dormi spessissimo col cane. Sì, c'è la sua copertina, ovviamente, la sua copertina, ma sai, gli cani di appartamento sono più puliti di tanti esseri, cosiddetti umani. Sicuramente più puliti di me, sicuro, su questo. Non volevo dirlo perché sei tu... No, lo puoi dire. Vabbè, ciao, ti devo salutare, Igor, ti abbraccio, ciao. Cravattino, ciao. La zanzara, cioè aspetto la pubblicità o lo stacco al parcheggio per poter andare a casa e non avere interruzioni. Grazie. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Una città cresce solo se è unita, solo se è insieme. La comunità africana a fianco alla comunità rom. A Padova costruiremo l'Institut du Monde Arabe. Come a Parigi. Come c'è a Parigi? Costruiremo il grande mondo istituto arabo. Di mondo di cultura araba. Una città che ha bisogno di ritornare centrale nell'Europa. Si cresce insieme. Una città violentata, ferita in questi anni. Non è vero. E riportata a livelli del sud-est asiatico. Siamo qui a dire ricostruiremo Padova. Riccardo Livorno, vai Riccardo. Ciao. Dimmi. Senti, non sono d'accordo con la promozione di Bello Figo. Ma nessuno promuove. Non c'è una promozione, certo, però. Che la promuovi. Ma quale promozione? Fatti sentire, ma come? Dai, io ti do sempre ragione a te, però questa volta hai toppato veramente. Cioè, è come promuovere un disagio sociale. Cioè, e allora faccio canzoni sulle minoranze, sui disagiati sociali e va tutto bene. Non va bene. Ma fallo, fai quello che ti pare. Cioè, che mi interessa, ma no, a me. Cioè... Ma no, allora gli insulti a bello figo gli stanno bene. Ma scusa, tu puoi insultare chi ti pare. Tu puoi insultare chi ti pare. No, ma non è il fatto. Non la devi promuovere a livello nazionale. Io non sto promuovendo, scusa, nulla. Io sto intervistando un signore. Ho intervistato un signore che è diventato un simbolo per diverse cose. In particolare... Ma non è diventato un simbolo, uno che prende per il culo la gente, il disagio sociale. Non piglia per il culo il disagio sociale, dai, piglia per il culo sostanzialmente quelli che si incazzano con gli immigrati. Senti, questo è il punto. Allora, se l'aveva detto Parenzo, che non capisce niente, potevo piacere, potevo, buonasera, capire. Molto, sì, lieto. Buonasera, Parenzo. Buonasera a lei, molto lieto. Tutto allora, bene, sì? Mi preoccupo. Funziona tutto a posto, sì, a lei, sì? Tutto, non si perfetto. Può sì, no, chiedo. Sì. Chiedo con allora, gentilezza. Se lo dici te, allora mi preoccupo. Perché sì. Ma io non sto promuovendo, non è promozione di nulla. Promozione di nulla. Allora, comunque, allora, ragazzi, la notizia di oggi, di queste ultime ore, è che la Fedeli pare che non abbia manco il diploma di scuola superiore. Non ha fatto nemmeno la maturità. Cioè, pare che non abbia fatto nemmeno la maturità. Vabbè, questo. Sostiene sempre Adinolfi, che sta facendo una ricerca severissima. Adinolfi, impegnato, è passato dal cristianesimo alla Fedeli. Lo sai perché? Beh, le cose sono collegate, i fedeli sì, e il cristianesimo. Sì, certo. Però, che naturalmente la Fedeli è una delle grandi promotrici della legge sulle unioni gay. E dunque, lui, certo. E dunque lui le rompe i coglioni. Ma frega niente, vabbè, di Adinolfi. Fate parlare di Adinolfi, frega niente. Dai, frega che niente, è pure ciccione, no? Ma non è per quello, me ne frega niente. Un signore si chiama Adinolfi, ma cosa me ne frega? A me mi disturbate, devo chiudere il giornale. Me ne frega niente. Ma no, Feltri, dai, su. Ma non è una trasmissione in mondo, me ne frega niente. Ma che roba è? Ma sempre immigrati, come? Ma non me ne frega un cazzo, ma mi basta bere del vino, ma perché? Ma me ne frega niente. Comunque, ma... pare che non abbia nemmeno il diploma di maturità la signora Fedeli. Cioè, ma ha fatto tre anni di magistrali. Tre anni di magistrali che non è la maturità. Invece lei sostiene, ovviamente, di avere la maturità. Mm. Ragazzi, non è laureata, non c'ha manco la maturità al ministro dell'istruzione. Ma dai, su, ma di che stiamo parlando? Ma spostiamoci a Trieste, dove c'è il sindaco di piazza che qualche tempo fa, sì, ha fatto un'ordinanza contro i barboni, contro quelli che mendicano per strada, e ordinanza che è stata poi bocciata. Addirittura un pakistano che ha fatto ricorso ha avuto un rimborso di 1000 euro che deve dare in realtà lo Stato e non il comune. Cioè, un pakistano è stato multato perché faceva il barbone per strada, un pakistano, ma che cazzo lo multano a fare? Comunque, vabbè, ha fatto ricorso, ha vinto al TAR, 1000 euro di rimborso, un signor pakistano barbone, chiamiamolo, va, sindaco di piazza Trieste. Pronto? Sindaco? Sì. Buonasera, la disturbo, qui Cruciani, la Zanzara. Eccoci. La Zanzara. Come andiamo, sì, come andiamo, sindaco? Come stai, benissimo, caro? Benissimo, caro, benissimo, benissimo. Non ci conosciamo direttamente, ma abbiamo un amico in comune che è il signor Mercù, signor Andro Mercù. Andro per anni mi faceva il verso a me, a Illi e a Tondo. Era una roba incredibile. Ma faceva anche la sua imitazione, sindaco? Sì, sì, faceva. Arrivano i mostri. Perché non ce lo assume in comune, sindaco? Ed eravamo io, Illi e Tondo. Ma perché non lo assume in comune, dice Parenzo? Sindaco Parenzo, buonasera. Lo assume in comune, gli dia una consulenzina, un 32.000 euro, 34, così lo io. Sì, quella robettina da niente, dici. Sì, una consulenzina. Per prendersi una visa di garanzia, dici. Una pizza, esatto, bravo. Per farsi attirare un po' l'odio della gente. Sì. Sì, no, volevo dirti che, sì, visto che siete la Zanzara, io sono, sì, sindaco dal primo, sì, dicembre del 96, con una punta d'orgoglio ancora la fedina penale pulita, la reputo un record nazionale. Meno male, sindaco. Meno male, bravo. Meno male, quello sicuramente. A parte sono il fatto... Sono un imprenditore, non sono come quelli, avete capito? Come quelli chi, dice lei? Come quelli chi? Quelli che vivono dal solo della politica. Cioè lei dice, potrebbe smettere di fare il sindaco domani mattina, un lavoro ce l'ha, insomma, no? No, un lavoro ce l'ho. Un lavoro grosso. Dichiaro mezzo milione di reddito all'anno, credo. Cioè, lei con la politica ci perde un sacco di soldi. Insomma, dopo c'è anche il divertimento, però. No, dico, ma certo, non c'è dubbio. Però dico, con la politica lei ci perde, no? Del denaro, cioè rispetto a quello che guadagna. Vabbè, sai, quello che uno fa, se uno fa l'imprenditore, sì, ci rimette sempre diverso e quelli che invece hanno la paghetta perché vanno in aspettativa per 20 anni. In Parlamento c'è gente che da 20 anni in aspettativa. Non c'è dubbio. Senza fare ma, i nomi. Ma lei oggi guadagna o non guadagna? Cioè, da sindaco lo stipendio lo prende o no? Perché dice che guadagna 500.000 di euro, potrebbe anche non prendere lo stipendio. Vabbè, perché devo rimetterci del tutto? Comunque buttare via i soldi è sempre negativo. Da buon friulano ti dico questo. Oh, per esempio, Trump, che lei sicuramente, per cui lei ha fatto sicuramente il tifo come me, d'altra parte, prende un dollaro di stipendio, stupendo. Sì, ma se avessimo i capitali di Trump è facile. Insomma. Vabbè, lei ha detto che guadagna 500.000 di euro, non è poco. No, noi la stiamo chiamando per una cosa, perché lei ha fatto questa ordinanza antibivacco che però subito è stata cancellata dal TAR. No, subito. Avevamo, quando siamo arrivati, avevamo un problema che avevamo in Porto Vecchio un bivacco fatto da 30-40 barboni che vivevano là. E abbiamo fatto un'ordinanza che sapevamo che veniva impugnata, che avremmo perso. Nel frattempo ho messo in piedi il regolamento. No, al di là di queste cose amministrative, c'è un signore, un pakistano, che ha fatto ricorso e ha ottenuto pure 1.000 euro di risarcimento. Perché hanno fatto la multa? Pagato dal governo. Sì, lo so, questo lo so, ma perché io non capisco perché un vigile urbano fa la multa a un pakistano, un barbone. È chiaro che quello non potrà mai pagare, cioè, mi pare evidente. No, ma volevo dire una cosa. Io avevo 30 barboni che vivevano all'ingresso del Porto Vecchio. Sì. Con quella ordinanza non c'erano più. Ho raggiunto l'obiettivo che mi ero prefissato o no? Cioè lei li vuole i barboni a Trieste? Sì, lei ha raggiunto l'obiettivo. Lei li vuole i barboni a Trieste o no? Ma come? No, certo che non li voglio. Cioè a Trieste non ci devono essere barboni, secondo il suo ideale di città. Ma no, io avevo 30 persone che dormivano. E come lo risolviamo? Ma al di là di quello, lei ha risolto quel problema. A Trieste città, diciamo a Trieste, lei vuole i barboni? No, mi sembra di capire. Ma perché lei li vuole i barboni? La gente che chiede... Ma scusi un attimo, lei... Ma vanno aiutati però. Io abito a Milano, zona semicentrale, sì. Benissimo, lei sa qualcosa allora vivendo a Milano. Vogliamo parlare di Roma, di cosa abbiamo fatto a Roma... Allargando a migliaia di campi di Rom, eccetera, eccetera, o non vi rendete conto di quello di come sta vivendo il paese? No, per cui nella sua la povertà esiste, sindaco. Voglio essere molto esplicito. Sì. Io voglio un paese dove vengono rispettate le leggi. Lei quando diventa cittadino italiano, io che sono sindaco, la faccio diventare cittadino italiano, lei giura di essere fedele alla Repubblica. Non c'è dubbio. Ecco, e questo deve essere fatto. Cioè, Trieste deve essere libera dai Rom, per esempio, libera dai Rom. Insomma, diciamo che è abbastanza libera dai Rom. Perché Rom free. Insomma, Rom free, queste sono frasi che trovano il tempo. Beh, no, è bella come frase. Trieste, Rom free. Sì, non è male. Cioè, lei è polemico. No, ma io sono d'accordo con lei, figurami. No, per me, no, lei, io, per me il sindaco, io, il mio modello di sindaco è Giuliani, figuriamoci un po'. Cioè... No, io sono per le regole. Io sto dicendo che la gente deve lavorare, non deve sporcare, non deve lordare. Sono contro quelli che scrivono, i writer, che la sinistra li chiama artisti di strada. E invece sono dei cialtroni. No, quelli che scrivono, che hanno deturpato. Ma chi è che difende i writer? Ma cosa dice? Lei vada alla stazione. Ma cosa dice? Di Roma. Alla stazione Termini di Roma, vada alla stazione di Firenze. Cioè Roma come la considera lei? Un cesso di città gestita male? Come la considera Roma? Beh, insomma, non è che proprio il massimo, insomma, in questo momento. Però io mi occupo di Trieste, perché non devo... Però ha fatto un paragone con Napoli che la gente si è arrabbiata. No, caro amico mio, ieri sul Sole 24 ore Trieste era decima, Napoli su 110 era terz'ultima. Allora non è che faccio io le classifiche. Bravo. Le fa il Sole 24 ore. Benissimo. Per cui dopo il sindaco Magistris si legge le classifiche e si rende conto di quello che ha fatto e di quello che non ha fatto. Per cui rifiuti, che dice non siamo a Napoli, rivendica la frase, siamo a Trieste, dunque lei non vuole Trieste ridotta come Napoli. Ma no, non è che io ho detto che non faccio paragoni con altre città. Beh, come che no, ha detto non siamo a Napoli, ha detto. Che ognuno si curi le proprie città. Però lei ha fatto il paragone con Napoli, l'ha fatto lei. Ho detto, quando sono andato in viale, che c'era una montagna di spazzatura, ho detto non siamo a Napoli. Ma lei viverebbe a Napoli? Sindaco? Capri è il più bel posto del mondo, i napoletani mi piacciono, però vivo a Trieste e se dovessi scegliere la mia seconda patria andrei in Austria. In Austria, meglio in l'Austria di Napoli, diciamo, meglio l'Austria, no, di Napoli. Ho detto l'Austria paese ordinato. No, dire, appunto, dico, invece di vivere, se lei dovesse scegliere la reggia di Capodimonte, però, non ho detto che non andrei a Napoli, ho detto che se dovessi scegliere di andare via a Trieste, andrei in Austria. In Austria, cioè, dopo Trieste c'è l'Austria, diciamo, paese più ordinato di tutto il resto d'Italia, evidentemente lei lo considera. Questo si può dire. Beh, lei è stato in Austria. Ma per me io andrei domani mattina in Austria, amico mio, sindaco, io sono come lei, io a Napoli non ci vivrei nemmeno ammazzato. Per carità, città bellissima. Non esagerate, sono delle zone molto belle. Io a Napoli non ci vivrei, ma è bellissima, ma non ci vivrei. È diverso viverci. Il Vomero. Ma viverci è diverso. Meravigliosa. Vabbè. Comunque fate quello che volete. Zanzara, abbiamo finito. Ciao sindaco, arrivederci, grazie. Come siete? Numero uno, ciao. Allora ragazzi, andiamo a Vicenza da Francesco, vai. Giuseppe, buonasera. Giuseppe, dimmi. Parenzo, saluti. Tre punti, tre cose. Salve, buonasera. Tre punti. Mi sembra troppo, dai. Buonasera a lei, benvenuto. Veloce. Guarda, sindaco, avversene di sindaci così, perché secondo me uno che ci tiene alla propria città fa queste cose, ha ragione. Poi, vai avanti, poi. Poi, secondo, il caso Bello Figo. Ha ottenuto quello che voleva, grandioso, come ha fatto Belen a lasciare in giro i filmetti di un certo tipo, è riuscito ad ottenere la sua notorietà e così sta facendo lui. Non è la stessa cosa, non è la stessa cosa. E gli state dando ragione e ha fatto gol, ha fatto bingo, benissimo. Poi punto numero 3. Sta facendo l'editoriale questo, sta facendo. Poi? Ma hai detto veloce che non c'è tempo? Vai. Numero 3, vorrei sapere come mai avete voltato così la faccia da ieri sera rispetto a quella signora. Non abbiamo voltato niente, già ieri abbiamo detto, io anche ho detto. Parenzo, lascia perdere. Ma lei si stura, lei si lava. Non vergognare l'Italia. Ecco l'altra, buonasera, prego, vergognare. Ma lei è un indipendentista, cara. No, non siamo indipendenti, no. Abbiamo sentito la trasmissione. Allora, amico mio, noi abbiamo chiamato Rosina, sì. E abbiamo usato, io e Parenzo abbiamo usato qualche frase che abbiamo ritenuta abbiamo successivamente, perché le cose si fanno distinto, io non rinnego nulla, successivamente, risentendo quella roba lì, abbiamo sicuramente... usato qualche frase fuori posto, siccome la signora ha subito una cosa molto grave in casa, non c'è stata nessuna giravolta, perché non ci sono opinioni io in questo poi, caso. Esatto, io aspetta, poi me la sono sempre presa con quelli lì, con gli indipendentisti. Non ci sono opinioni, ci sono semplicemente delle frasi pronunciate che nei confronti di quella che abbiamo ritenuto, risentendole, eccessive rispetto allo stato d'animo di quella signora. Punto e basta. E per questo le abbiamo chiesto scusa. Non c'è un cambio di opinione. Qual è l'opinione in questo caso, Francesco? Qual è? L'opinione è che ieri il punto era totalmente diverso. Ma quale punto che... di che? Quale punto? Non dici che c'è un cambio di opinione. Ma nella tua testa c'è il cambio di opinione. Nella tua testa. Bianco, oggi è nero. Ma comunque, quale bianco e nero? Non dire stronzata, dai. Di questo, finalmente siete tornati all'Ovile. Sì, all'Ovile. La situazione è bella perché siete così un po' rompiballe. Ciao. Tutto lì, ciao, grazie. Ragazzi, ci sentiamo domani, Se ti saluta l'avvocato. Ciao, avvocato. Se lavorassi con noi sarebbero cazzi, mamma mia quanto lavoro. Contro Dylan Dog, contro Dylan Dog di venerdì, Peppe. Ciao. Li mortacci vostri! Andate tutti a fanculo! Andate tutti a fanculo! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Ragione, lo dica, casa, lo, dica, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. Libera la voglia di fare.